Zici pe rebei moru. Gini, urani. Dar ti se... Mura vei, pe nesli presa, doki sa mi mucele, ki tia sa zbrni, come dira sopa. Mi cane, sa muoni al... Rani ginesio, non è mutani, forno su, ogni parolini. E so io, sa o, sa malovra. Perché gli altri non gli hanno niente, gli altri non gli hanno niente. Gli altri. Perché con tutte le cose che bene ricevuto, io forse. Questo paese, la cupretta, druso, dei nuovi, io forse. Ma se non riesco a finire da muoce, almeno con un po' di carbutazione. Almeno che è necessario. Io poi. Per quello cosa serve? Ah, bisogna tacere.